un bambino vivace, molto vivace, anzi, vivacissimo! Vi canterò un rap piccante, molto piccante, anzi! Perché sono pieno di entusiasmo.